veramente patetico è uno schiaffo alla popolazione, ai cittadini italiani. Io decido chi infilare, come, dove, quando, in base a logiche che, ripeto, non rispondono all'interesse dell'azienda e quindi all'interesse generale. Senta, in tutto questo è contenta di aver saputo, aver appreso, immagino, come tutti ieri, che Michele Santoro è approdato alla 7? È una perdita per la Rai definitiva, mi sembra di poter capire, però va lì. Vuol dire che c'è anche un po' di concorrenza in TV oppure no? È limitata? Insomma, la concorrenza c'è ed è la tecnologia stessa, no? Che offre la possibilità di avere concorrenza con il moltiplicarsi dei canali e quindi questo è un fatto di per sé, secondo me, positivo. Lasciare andare via Santoro, io poi non conosco i dettagli di come è avvenuta l'uscita di Santoro. Di sicuro, insomma, non si sono stracciati le vesti per trattenerlo, ecco, questo sì. Ma che... questo secondo me è una perdita, proprio al di là di come uno la pensa. Uno può apprezzare Santoro o non apprezzare Santoro, senza dubbio è un autore, un giornalista che dà valore all'azienda in termini anche proprio cinicamente di numeri economici. Per il suo programma è tutto a posto, perché ogni anno c'è questa diatriba che quest'anno mi pare di non aver visto: la tutela legale, la non tutela legale. È tutto tranquillo? Pronto? È tutto tranquillo per il report quest'anno? Pronto? Sì, la sentiamo, eccoci qua. È tutto tranquillo per report quest'anno, la tutela legale, non ci sono problemi? Allora, il problema della tutela legale si pone ad ogni scadenza di contratto. Quindi per il momento non sta scadendo e sarà un problema che probabilmente porrà, o mi auguro non porrà, il nuovo che arriva. Ah, sì, certo, ma scade quando il contratto? A fine agosto, quindi è una questione che potrebbe un tormentone che riproporsi. Fine agosto non di quest'anno, però dell'anno prossimo. Ah, ecco, non è specifico. Però il problema della tutela legale, indipendentemente da questo, ogni nuovo che arriva lo pone. Quindi adesso con l'attuale direttore generale la questione si è risolta l'anno scorso. Il nuovo che arriverà non lo so. Speriamo di no. Un'ultima battuta, ma le ha mai risposto il ministro Fornero, al quale lei aveva chiesto di tagliarsi la pensione, di fare... No, no, io non gli ho chiesto di fare un gesto, diciamo, come ha fatto per tutti gli italiani. Di tagliarsi la pensione, però anziché andare lei usufruire del sistema, di andare in pensione col sistema retributivo, di andarci col contributivo come tutti gli altri. Non le ha mai risposto, cioè non ha mai... No. Tra l'altro ha visto che è saltato, credo, un tetto a 6.000 euro che volevano porre come emendamento in Parlamento per le pensioni, per i dirigenti pubblici. Secondo il Fatto Quotidiano questo è stato anche un conflitto di interesse all'interno del governo e hanno rimandato il tutto, insomma. No, il punto è: fate sacrifici. Non facciamoli. Fate. Cioè, vede questo governo così, come italiani fate voi, fate sacrifici. Mi pare che non è questo, è da troppo tempo c'è questo fate. Noi facciamo tutto quello che vogliamo e non dobbiamo rispondervi di nulla, non dobbiamo rendere conto di nulla. Anche questa trasparenza così spesso... Questo termine così spesso invocato e sulla bocca di tutti, in realtà quando hai bisogno di andare a vedere o verificare dati o numeri, scopri che poi questa trasparenza in realtà non c'è. Neanche adesso. Non sappiamo. Neanche dei super tecnici. Lei sa esattamente qual è lo stipendio del presidente dell'INPS? Io no. Lei lo sa? No. Pare che ne abbia diversi, peraltro. Quindi... Cioè, uno dovrebbe entrare sul sito dell'INPS e vedere qual è. Cioè basta fare un giro sui siti delle pubbliche amministrazioni del resto d'Europa uno vede la differenza fra sé e gli altri, proprio in termini solo in termini di trasparenza, per dire.